mi pare chiaro che se ne può andà. La combatto da una vita ma sta ancora qua. Ci ho provato in tutti i modi, non so più che fa. Prigioniero di una scimmia, prigioniero di una scimmia, prigioniero di una scimmia, prigioniero di una scimmia. Da dove è arrivata proprio non se sa, e dovunque andrò lei mi seguirà.